Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. E allora, eccoci qua, buongiorno a tutti, 8:33 minuti, ciao da Alessio Maurizi. E ciao, buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Carlo, Milano-Monterosa. Sole, bello. Ho un po' paura a dirlo con questa enfasi con cui l'ho detto anche ieri, perché prima o poi forse arriverà la pioggia, però insomma, siamo vicini all'estate, stavo addirittura dicendo siamo quasi in estate. Siamo in primavera. E che non si capisce, siamo in primavera, c'è il sole, però poi fa freddissimo. L'altro ieri sono stato fermato da una condomina che mi ha detto, anche lei vuole il riscaldamento, e io mi sono difeso trinciando dicendo io sono in affitto, e lei giustamente mi ha detto vabbè, anche in affitto può avere freddo uguale. Non sapevo che cosa rispondere. Mi piacciono sempre molto le sfumature dei tuoi racconti alla mia domanda del mattino. Milano Monterosa, e va bene, continuiamo così. 800 24 00 24, cari ascoltatori, cominciate a prenotare il vostro intervento e soprattutto cominciate a pensare a un personaggio della settimana che sia nazional popolare. E questo era già il primo indizio, ve l'ha appoggiato così Alessio. Partiamo subito così, con questo primo indizio, nazional popolare. Pensate, immaginate una notizia degli ultimi 7 giorni, un personaggio, e digitate l'800 24 00 24. Iniziamo con Filippo Oreggi in regia, Lorenzo Nespoli in diretta, in redazione, gli altri a letto a dormire, i nostri autori, redattori eccetera. Vai, ma no, che ci ascoltano. Sunday, Monday, chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. Je sais vos attentes. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Vabbè, abbiamo fatto provare l'ebbrezza di sentire un inizio veramente ostico, tutto in francese. Sì, tutto in francese, oggi va così. In onore del fatto che ero a Parigi proprio durante le elezioni e ero molto impaurito, perché ho detto, mi ha mandato qua a Radio 24 proprio, sembrava che fossi lì apposta per quello, e avevo paurissima di qualunque tipo di conseguenza. Com'è andata, insomma, a essere lì nei giorni delle elezioni? Beh, è stato un'emozione particolare? Sì, è stato interessante, perché comunque si sentiva che nell'aria c'era questa elezione con tantissimi presidenti che ha portato a sfoltire e a finire con Le Pen e Macron, che comunque è un risultato storico sia per la sinistra, diciamo, sia per la destra, sia per un indipendente, poi non è indipendente, poi è in linea con Hollande, insomma tutto quello che si è detto. Però è strano, perché se ne parla molto per strada e soprattutto è difficile, perché senti spesso i francesi che hanno un po' quel modo di dirti sì, no, la Le Pen è pericolosa, però... Quindi c'hai sempre quella sensazione che nessuno lo dice, ma in tanti la voteranno. E comunque ancora una sfida, un po' come è successo in America, tra un candidato che vuole rovesciare il tavolo e un candidato di sistema, anche se in questo caso il candidato di sistema sembra avere un po' più appeal di quanto non è accaduto con la Clinton in America, e quindi adesso è più un Renzi in vantaggio nei sondaggi. Staremo a vedere. Adesso invece noi ci occupiamo di cose di casa nostra, come si dice in questi casi, e parliamo di conservatori. C'è un allarme per rischio chiusura dei 19 più importanti conservatori italiani nel paese della lirica. Non è possibile. Questa è la scuola del ritmo, dove si impara a cantare. Prego un po' d'attenzione alla lezione. Mi, mi, mi, mi, sol, si. Mi, mi, mi, mi, do, si. Poi mi, mi, mi, si, la. Sol, si, la, fare, si, mi. Mi, mi, mi, mi, mi, sol, si. Mi, mi, mi, mi, do, si. Ma che male. Diamo il buongiorno e buona domenica a Giulio Cesare Ricci. Buongiorno. No, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eccolo qua. Allora, lui è un ex direttore del Conservatorio Mascagni di Livorno. No, presidente. Presidente, no, presidente. Italia, popolo di presidenti, dimentico sempre. Discografico soprattutto. E ha avuto, credo, anche un ruolo, non so se ce l'ha ancora, come coordinatore a un certo punto di alcuni conservatori. E soprattutto mastro vinile, grandissimo appassionato del vinile. Cioè, come dice Renzo Arbore, sono mastro vinile, il produttore più esoterico di vinile. Esatto. allora, le è piaciuto la Bagliati, Aureggi, Filippo, poi se ce lo fai risentire a un certo punto. Siamo partiti così, a cavallo, un po' tra il concetto di musica classica e un swing, un mezzo jazz, perché oggi è la giornata forse mondiale del jazz o qualcosa del genere. Abbiamo... Sì, fantastico, fantastico. Bene, bene. Analogico al 100%, naturalmente. Certo. Cioè, è la giornata mondiale del jazz analogico, dice? Per me è analogico. Allora, andiamo per ordine. C'era una notizia però che è arrivata nel frattempo, perché il ministro dell'istruzione Fedeli ha detto basta, non rischiamo nessuna chiusura di questi conservatori a cui non erano stati rinnovati i fondi necessari per sopravvivere, perché quella dei conservatori privati è una storia un po' particolare, e ha annunciato una sorta di statalizzazione. Possibile questo l'annuncio? Abbiamo capito bene? Certamente, il problema è che nel nostro paese siamo veramente maestri a fare gli annunci, però agli annunci in termini legislativi si deve arrivare a dei decreti attuativi, e nel senso ci devono essere le risorse certe per finanziare questi annunci. Cioè, belle le parole, ma poi servono i soldi, mi scusi così per... Esattamente, quindi voglio dire... Ministro Fedeli, che ha dimostrato da poco tempo, perché da poco tempo che è ministro, una grande attenzione non solo su questi argomenti. Il problema però è che deve convincere il Ministero dell'Economia a sganciare. Ecco, sì. E questo è il concetto. Quindi alla fine noi abbiamo 18 grandi istituzioni nel nostro paese, perché stiamo parlando di città. Ora, io sono livornese, quindi... in primis, scusate, metto la mia città che è Livorno, ma in Toscana abbiamo conservatori a Lucca, a Siena, ma in altre città, Bergamo, Cremona, Catania, Taranto, Reggio Emilia, Modena, cioè, ci sono tante città importanti di grandissima tradizione che da anni, ogni anno, quando devono i presidenti chiudere i bilanci di queste istituzioni, arrancano perché hanno difficoltà, voglio dire, a ricevere i fondi necessari. A che cosa? A pagare gli stipendi agli insegnanti e al personale non insegnante. Ma non ce n'è, adesso le faccio una domanda che è sicuramente una domanda stupida: non ce n'è troppi di conservatori? Ma guardi, allora, in Italia ci sono 64 conservatori statali e 18 non statali. Sì. L'Italia ha una grande tradizione, quella che ha scritto la maggior parte della storia della musica del nostro paese. No, ma mi chiedevo, tipo, in Inghilterra quanti, nel senso che noi ne abbiamo 15, circa 90. Però, vede, la questione è, qui, è 64 più 18. Sì. La questione è questa: il conservatorio, oltre a portare avanti un piano didattico per i ragazzi nel triennio e nel biennio, come nelle università, il conservatorio fa un'attività didattica che parte dai bambini dalle scuole elementari, addirittura anche quando sono ancora più piccoli, con dei corsi con il metodo Suzuki, che è un metodo che insegna a bambini che non sanno ancora scrivere. Questo, il conservatorio, quindi, in Italia ha storicamente un rapporto con la musica che parte con i bambini piccoli e li porta per mano fino al triennio, al biennio universitario. No, ma guardi, sull'utilità non ho il minimo dubbio, nel senso che... perché non sono molti, perché certo, in realtà del nostro paese, voglio dire, le città importanti del nostro paese e le attività sono molteplici. E poi, vede, in questi casi bisogna vedere, bisogna sempre leggere i dati, perché io sono una persona concreta, quindi quando un conservatorio che ha numero chiuso ha il numero degli studenti, voglio dire, massimo, ha le cattedre, voglio dire, al massimo, voglio dire, di quelle stabilite, significa che c'è interesse. Certo. Che c'è, quindi, da questo punto di vista, occorrerebbe sicuramente trovare una ottimizzazione del sistema. Però mi spiega una cosa, Ricci, ha risposto chiarissimo a questa domanda, perché è una storia un po' particolare questa di questi conservatori, di cui adesso il ministro vuole, in qualche modo annuncia questa statalizzazione, cioè si passa da conservatori che sono di fatto privati, delle fondazioni che sono legate ai teatri lirici eccetera, a finanziati quindi dallo Stato, perché è chiaro che una scuola non può produrre utili. Quanto costa la retta di un conservatorio, per esempio, a uno studente medio, insomma, per un anno al Mascagni di Livorno, per esempio? Ma diciamo che questo dipende chiaramente dai corsi, eccetera, eccetera. Però comunque, voglio dire, sono delle cifre importanti, sicuramente inferiori a quelle che sono le cifre dell'università. Comunque stiamo parlando comunque di centinaia e centinaia di euro, voglio dire. Questo è, però non è sufficiente a far sì che il conservatorio si possa pagare da solo gli stipendi, come diceva lei. E quindi fino ad oggi c'è stato questo aiuto dello Stato che ha riconosciuto questi conservatori, giusto? Adesso però questo aiuto era messo in discussione e il ministro annuncia addirittura una statalizzazione. Ci torniamo sopra tra poco, facciamo le informazioni sul traffico, poi torniamo con Giulio Cesare Ricci del Conservatorio Mascagni di Livorno. Io sono di Pisa, però d'altra parte... Non litigate, andiamo col traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande. Quanta enfasi alle 8:47 di domenica mattina su Radio 24. Fatemi ricordare l'indizio per gli ascoltatori: stiamo cercando un personaggio della settimana che è nazional popolare, quindi aguzzate l'ingegno, pensate agli ultimi 7 giorni a un personaggio che sia nazional popolare. Ripeto, 800 24 00 24. Giulio Cesare Ricci, allora, il volo sono un po' l'emblema, no, dell'immagine dell'Italia all'estero, anche se questi sono un caso particolare, escono da un talent, no? So che lei talent non li ama molto, tra l'altro. No, non è che non li amo, io vorrei sottolineare questo aspetto. Ci sono migliaia di ragazzi e ragazze nel nostro paese che, oltre a fare gli studi, diciamo, tradizionali che fanno gli altri loro coetanei, hanno un impegno importante perché studiano ai conservatori. E questi del volo non hanno studiato? Voglio dire, ora da questo punto di vista sicuramente avranno studiato, sicuramente hanno un talento, però quello che è importante è che nella musica, come in tutte le altre discipline, fine, sì, è importante studiare nel tempo. Fare musica è come fare uno sport, bisogna allenarsi ogni giorno. E non è possibile che te da un giorno all'altro diventi una star e quindi, voglio dire, perdi quello che è l'allenamento che una scuola, come uno sport, deve essere contemplato. Ecco, ma quali sono le possibilità però per un ragazzo che studia, per esempio, al conservatorio, che fa anni e anni di violino, mettiamo, quali prospettive ha di mercato, di per trovare un lavoro? Oltre alla metropolitana, dici? Ecco, sì. Ma voglio dire, allora, a parte che nel nostro paese esistono situazioni, diciamo, istituzioni musicali che producono musica, quindi voglio dire, al di là delle orchestre legate agli enti lirici, che anche questi sono teatri, ma ci sono comunque mille situazioni che riguardano la produzione della musica, sia da un punto di vista attivo, quindi del musicista, ma anche, voglio dire, parallelo, perché chi ha fatto il conservatorio è chiaro che può lavorare, oltre che insegnare naturalmente, lavorare in una struttura musicale parallela anche alla produzione stessa. Cioè? Se uno vuole scrivere, sì, se uno vuole scrivere di musica e fare il giornalista, è evidente che è fondamentale che abbia una specializzazione. Cioè anche il critico, giustamente, certo, voglio certo dire. Quindi da questo punto di vista è fondamentale un approfondimento, fermo restando che spesso capita che molti ragazzi e ragazze che hanno fatto il conservatorio parallelamente hanno fatto anche un'altra, hanno preso anche un'altra laurea, e la loro formazione è stata molto molto arricchita da questo, perché lo studio della musica è uno studio che è un percorso complesso. Ma facciamo un talent sulla classica, se no. Ma quello, voglio dire, sarebbe straordinario, ma devo dire non solo nella classica, perché Ne propongo un altro. Facciamo un talent fra tutti questi conservatori, e quelli che vincono prendono tutti i soldi dal ministero. Questo è un po' cattivella. Questo è un po' cattivella. No, ma perché io prima, mi scusi, le ho fatto la domanda sul fatto che forse sono troppi, ma non era una questione di polemica sul troppo, è proprio che è il sistema italiano. Siccome ho letto un bel pezzo suo su Huffington Post, sul suo blog, dove giustamente lei diceva: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, cioè l'articolo 9. Siccome tutti ci riempiamo la bocca con la Costituzione, giustamente lei diceva: bella la Costituzione, ma come ha detto all'inizio di questa intervista, poi bisogna fare delle azioni concrete, nel senso che promuovere lo sviluppo della cultura vuol dire mettere dei soldi per i conservatori, per esempio. E questo mi sembrava molto giusto. Mi chiedevo se, come penso in altri paesi, come in Inghilterra, in Francia, in Germania, dove sono più accentratori, mentre noi abbiamo l'Italia dei comuni, se vogliamo dire, quindi disperdiamo più energie, mentre loro ne fanno uno gigantesco o a Londra o a Parigi e hanno più fondi. Almeno, siccome a volte per il teatro è così, e mi chiedevo se anche per la musica fosse così. Attenzione però, voglio dire, se il modello francese è un modello che sicuramente ha questi, diciamo, conservatoire, che sono, voglio dire, due in Francia, però ci sono tutti i conservatori regionali. Questo significa, perché noi spesso prendiamo dagli altri nostri paesi, anche vicini, prendiamo parzialmente alcune idee. E possibilmente Francia, non le migliori. No, nel senso, abbiamo l'abitudine di fare una sintesi. Spesso la sintesi è importante, però dobbiamo approfondire l'argomento. In Francia, se si va a sommare il numero dei conservatori regionali, sono superiori a quelli italiani. Ah, perfetto, perfetto. Però in Francia hanno stabilito, diciamo, che esistono due grandi istituzioni, voglio dire, super istituzioni, che dove vanno la creme della creme, quello che lei prima diceva, voglio dire, facciamo il talent dei conservatori. Ecco, loro ce l'hanno già. Certo. Senta Ricci, no, è chiaro, ha risposto anche su questo. Fuori, sì. Ha capito? Sì, sì, benissimo. Questo è un aspetto. Però io vorrei, mi posso permettere, per chiarezza nei confronti degli ascoltatori, perché immagino che sentono un argomento che forse... Vada, certo. È la questione... 64 conservatori sono statali, ci sono 18 non statali. Ecco, questi 18 non statali sono esattamente come questi statali. L'unica differenza è che in questi anni, per vivere, quelli statali i soldi li ricevono dal Ministero del Tesoro. Quelli non statali li ricevono dai comuni, dalle province, da alcune regioni e dallo Stato. Quindi, avendo meno soldi con la spending review non ricevono più niente. Ma io le volevo chiedere, non è che temete a questa statalizzazione che possa essere invece addirittura controproducente? Perché siamo abituati a sentir parlare di statalizzazioni di presenza dello Stato, insomma, pensiamo a un'altra istituzione culturale, la RAI, solo che problemi intorno alla presenza dello Stato nella RAI, ai politici che nominano i direttori, si suonerà tutto più lentamente dopo. Guardi, questa è una battuta, però non so, io guardi, sarà che sarò vintage perché sono politico, sì. E sono di quelli che comunque crede nella qualità della politica. Quindi io mi auguro, e quindi gli interventi dello Stato che sono finalizzati in una statalizzazione buona, insomma, ci spera, ci crede. Anche perché la questione è molto semplice, voglio dire, in questo bisogna essere molto concreti. Gli stipendi ai lavoratori devono essere pagati ogni mese. Se i conservatori non statali non riescono a chiudere il bilancio, chiudono, come è successo ad Ancona, certo. Che ha già chiuso. Allora, voglio dire, è fondamentale, crediamo, il nostro paese crede nella musica, nello studio della musica di altissima questa qualità. È la domanda giusta e questo è il momento anche di dare una risposta. Il ministro Fedeli ha fatto un annuncio e staremo a vedere. Io la devo salutare, Ricci, perché abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione, devo fare due ascoltatori. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille, in bocca al lupo, un abbraccio. Grazie, anche se è di Livorno, io sono di Pistoia. Grazie mille. Grazie, Ricci. Allora, insomma, non è una questione facile, però nel paese di Puccini, Mascagni, Verdi e anche del Volo e di Pavarotti l'elenco potrebbe andare avanti fino alle 10. La chiusura di 20 conservatori un po' ci impressionava. Abbiamo cercato di capirne qualcosa di più. Maurizio da Parma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Eccolo qua, vai. Eccoci. Cosa vuole intervenire? Io avevo pensato erroneamente a Claudio Ancelotti, perché ha vinto l'ennesimo titolo col Bayern in anticipo ed è un personaggio internazionale popolare, però, perché... Perché dice anticipatamente, ho pensato erroneamente? Perché non si può chiamare, cioè non mi avreste chiamato a quest'ora. Ma questo... Beh, è capitato, non è mai capitato che la prima telefonata indovinasse, in effetti, si arriva in genere a indovinare, a meno che non ci sia qualcuno bravissimissimissimissimo, e in effetti Maurizio però non era Ancelotti, il nostro personaggio nazionale popolare, questa volta, complimenti a lui, ma anche a lei, perché in effetti ci stava, era un po' un trappolone questo. Può anche essere che alla fine si scopra che è quello che ci è arrivato più vicino. Può anche essere, in questo caso diamo il premio ad honorem, altrimenti il libro che scegliamo ispirandoci ai temi della puntata per regalarvi lo vincerà lei, insomma. Luigi da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho pensato a Nino Benvenuti, perché in quest'anno è stato ricordato come il 50° anniversario che lui ha vinto il campionato mondiale, e poi anche perché compie gli anni. Grandissimo Nino Benvenuti, beh, gli anni li compierà tutti gli anni, però. Questo. Sì, vabbè, ma lui ha vinto il campionato mondiale. Certo, 50 anni fa. È il suo compleanno il 26 aprile, quindi è dentro nella settimana. È dentro nella settimana, quindi è corretto, è tutto corretto, e infatti non è lui. Grazie Luigi, comunque, perché il notaio prenderà nota di questa telefonata, il nostro notaio immaginario, naturalmente, perché potrebbe... La risposta è corretta, insomma, è un personaggio della settimana, però non è la risposta giusta, anche se è corretta. 800-24-00-24, a tra poco con un personaggio nazionale popolare che andiamo cercando. E poi... anche con un secondo indizio dopo. Dopo. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Si può fare, si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana e il primo indizio è che è nazional popolare. Tra qualche minuto forse ero qua che stavo dando secondo indizio. Aspettiamo ancora un po'. Nel frattempo facciamo un po' di riepilogo di questi ultimi sette giorni. Siamo partiti dalle elezioni francesi, veniamo in Italia, la vicenda ONG migranti. Sentiamo esattamente le parole che ha detto il procuratore capo di Catania Zuccaro, che poi hanno ad Agorà, su Rai 3, che poi hanno sollevato una marea di discussioni e di polemiche. Sentiamo, era un'intervista lunghetta, noi abbiamo preso un passaggio, sentiamolo. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti. So di contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Potrebbe anche essere, forse la cosa potrebbe essere anche più inquietante, che si perseguono da parte di alcune di queste ONG finalità diverse, di destabilizzazione per esempio dell'economia italiana. Oh, fin qua un magistrato che fa un'intervista, qualcuno dice non devono fare interviste sulle indagini in corso, ma questo si sa, le fanno sempre, no. E poi la strumentalizzazione politica. La questione è anche che è un magistrato che però parla senza dei fatti, dice potrebbero alcune, non tutte, so di un contatto. Se sei un magistrato in teoria dovresti portare delle prove, devi portare degli atti, delle indagini. Sentiamo però poi la parte di strumentalizzazione politica, di dibattito politico, sentiamo Di Maio che si butta a pesce, si dice a pesce, no, non si dice, l'ho inventato io in questo momento. Sì, si può buttare a pesce. Si può buttare a pesce su questa vicenda qua, sentiamo. Io credo che la polemica politica sia scandalosa perché qui abbiamo due rapporti Frontex che accusano le ONG di essere in combutta con i trafficanti di uomini, con gli scafisti. Noi siamo molto preoccupati e quando io sento Saviano o il Partito Democratico scandalizzarsi per le mie parole, penso ad una schiera di ipocriti che in questi anni hanno sempre finto di non vedere il business sull'immigrazione che c'era in Italia e infatti poi ci siamo ritrovati con Mafia Capitale. Vabbè, insomma, io dico solo una cosa, può darsi che ci siano dei trafficanti in contatto con delle ONG, magari sono riusciti a corrompere qualcuno. Ma può darsi tutto. Nelle ONG, eccetera, eccetera. Si indaghi, assolutamente si indaghi, però esatto. Definire le navi che fanno il soccorso nel Mediterraneo, taxi del Mediterraneo, quando c'è ancora un sacco di gente che muore in quella traversata, a me sembra un po' fuori luogo, questo semplicemente. E soprattutto di sparare a zero un po' su tutte, senza, diciamo, io personalmente sto con il ministro Orlando che dice appunto che la procura parli attraverso le indagini e se il PM ha elementi in questo senso faremo una valutazione. Sì. Non è giusto ricostruire la storia delle ONG come la storia di collusi con i trafficanti, perché così è una menzogna. Benissimo, allora siccome l'hai fatto tu, allora Minniti non lo sentiamo nemmeno perché tanto chiedo scusa. Minniti, no, stavo per dire Minniti è inutile, no, ma solo in questa circostanza non si offende al ministro dell'interno, perché questa è più o meno la posizione del governo. No, generalizzazioni, stiamo a vedere le indagini, bla bla bla. 800 24 00 24 prima di parlare con un ospite importante, perché è rappresentante di una ONG che non c'entra nulla con questa vicenda qua, ma una ONG che si occupa della salute dei cittadini, della qualità dell'aria in Europa e che ha raggiunto, sta raggiungendo risultati straordinari, stanno rivoluzionando praticamente mezza Europa. Però hai fatto molto bene a dire questa cosa dell'ONG, perché esattamente il problema è questo, che se uno spara nel mucchio così parlando dell'ONG, ormai appena senti una ONG qualcuno dice ah, saranno mica quelli dei taxi, e quindi è molto giusto. La ONG dei taxi. Paolo, esatto. Da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora vai, dici piacere, tutto. È un piacere però prima di tutto parlare con voi, perché da tanto che vi ascolto e soprattutto devo fare gli auguri a Carlo, perché ho visto che è finito lo stage, non sei più uno stagista. Ma siamo ancora in trattative, direi. Ah, ti ringrazio moltissimo di seguire la mia vicenda. È vero. Il mio sogno è proseguire ovviamente a Radio 24. Vabbè, ormai adesso però che aboliscono i voucher dovremo trovare un altro modo per pagarlo. Le pizzette, lo sai che dopo andiamo a fare colazione, Ale. Vai Paolo, vai. Allora, il mio personaggio è Erin Moran, sarebbe sottiletta di Happy Days. Come la no? Certo. La sorella di Richard Un Cani, sorriso straordinario, indimenticabile. Che ci ha lasciato questa settimana. Anzi, scusami, la dovresti ricordare tu la notizia per essere corretti. Vedi che sono ancora stagista. No, non è vero. Hai avuto l'upgrade, l'abbiamo detto prima. Sì, ci ha lasciato questa settimana, il 22 aprile, morta dopo insomma un periodo di cancro al quarto stadio. Questa è la notizia che avevo letto. Ed era anche incredibilmente giovane, visto che insomma 56 anni e insomma noi ultra quarantenni che siamo cresciuti con quella roba lì, ma anche qualche cinquantenne, lei praticamente era una coetanea di questa generazione. Perché insomma ho scelto questo personaggio, mi è venuto in mente perché vi ho ascoltato all'inizio della trasmissione, la prima canzone che mandate in onda è la sigla di Happy Days. Sì, però siccome tu sei un attento ascoltatore è sempre la domenica, è sempre la domenica. E in più, guarda, se proprio vogliamo dire, vuoi sapere perché non hai vinto? Perché la straordinaria attrice è morta il 22 aprile, la notizia quindi è di settimana scorsa, quindi il notaio purtroppo... Noi su questo siamo abbastanza rigidi, Paolo. Vogliamo una notizia degli ultimi sette giorni. Però ti ringraziamo di aver ricordato questa notizia, siamo sempre contenti. Il motivo per cui noi cerchiamo un personaggio della settimana è per ricordare tutti i vostri personaggi della settimana. Grazie Paolo, in bocca al lupo. Grazie. Invece utilizziamo Happy Days perché tutte le domeniche facciamo un po' di riepilogo, di notizie. Una cavalcata su tutti i sette giorni. Tutti i sette giorni, e quindi abbiamo canzoni che rievocano un po' questa tematica qua. Domenico da Roma, buongiorno. Sì. Buongiorno. Allora, che ci secondo me il personaggio sono le primarie del PD, più nazional popolare di questo. Nazionale Popolare, bisogna vedere quanti andranno a votare, perché potrebbe diventare di nicchia quasi, Stiamo a vedere. Insomma, minimo sopra il milione, io penso che sia comunque un momento di coinvolgimento. Tu ci vai a votare, Domenico? No, non ci andrò. Ma perché non te ne frega niente o perché sei deluso? Non sono iscritto al PD, ho delle mie idee, tra i tre non ci metterei neanche un secondo a decidere. Però, insomma, chi decideresti così? Assolutamente Renzi. Anche se non si poteva, ormai si è potuto. Ci sono le urne aperte, Alessio. Noi siamo, si può fare, possiamo tutto. Insomma. Rispondiamo a Domenico? Rispondiamo, è tutto giusto, ovviamente le primarie lì sono dentro in questa settimana e ovviamente noi spesso cerchiamo personaggi che non sono umani, quindi la risposta è tutta perfetta. Però ma non è quella che avevamo scelto. Grazie mille Domenico, grazie. Grazie mille. Anna da Napoli, vai. Buongiorno, grazie per avermi dato la possibilità di parlare, ma io intervengo sui conservatori. Sì, prego. Abbiamo parlato con Ricci, del conservatore Ricci. Mascagni stamattina. Sul i conservatori, pensavo i conservatori, nel senso... No, i conservatori di musica. Perfetto, pensavo in contrasto con progressisti, le chiedo scusa, prego. No, grazie per l'occasione, perché in genere dei conservatori non si parla in Italia. Vero. E quindi mi sembra questa un'incongruenza pari a quella che ha visto cadere gli edifici a Pompei. Cioè noi abbiamo un patrimonio, una tradizione musicale che non viene tutelata. Adesso però gli edifici a Pompei non crollano più, diciamo, perché sono stati fatti un sacco di lavori. Però iniziano a chiudere i conservatori, giustamente, la signora ci fa notare. Io spero che si faccia qualcosa per i conservatori, perché come mamma di un ragazzo che ha studiato per tanti anni e si è diplomato in chitarra classica, assisto con dispiacere al fatto che occasioni e possibilità di lavoro successivamente non ce ne sono, non vengono banditi concorsi, Ricci ha detto ci sono delle scuole di musica, si possono dare lezioni di musica, ma è tutto molto molto aleatorio. Ha parlato del volo e del successo di questi tre ragazzi bravissimi e del fatto che non sia giusto che si abbia tantissimo successo con minor lavoro, però ancora credo che le occasioni siano queste, dei talent, dei concorsi, una parentesi con i concorsi fatti ad hoc per i musicisti, ci sarebbe tantissimo da dire sulla obiettività delle commissioni e via dicendo. Ma lei lo manderebbe suo figlio a un talent di chitarra classica? No, mio figlio è contrario ai talent. Come? Proprio perché non stima abbastanza i criteri di selezione. Però non voglio fare il discorso personale, voglio fare il discorso sulla riforma del 99 che non è stata poi proseguita con i decreti attuativi e quindi parlare adesso di riforma ulteriore senza avere compiuto quella precedente, che pure aveva qualificato. Questo è un po', questo è un po', Anna, questo è un po' il male italiano. Io la ringrazio. La saluto adesso, però, perché abbiamo il traffico da dare. È il male italiano, una riforma pressa all'altra senza che nemmeno quella precedente sia stata conclusa, sia stati fatti tutti i decreti attuativi, sia stata compiuta, sia stata analizzata. Staremo a vedere. Il ministro Fedeli ha fatto un annuncio di statalizzazione di questi 19 conservatori. In totale in Italia ne avremo circa un'ottantina, ne abbiamo circa un'ottantina. Bisogna capire se, come diceva Carlo, forse ce n'è qualcuno anche di troppo, magari da razionalizzare, da ottimizzare, oppure se non è così. Quindi un'altra riforma, non lo so, punto di domanda. Noi abbiamo semplicemente toccato l'argomento che, vedi, insomma, riguarda parecchie persone. E come dici tu, è un male italiano, e noi rispondiamo con un altro male italiano: traffico. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me. Taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me. Allora, con questa celebre colonna sonora parliamo del respiro, in questo caso il respiro dell'Europa, perché lo abbiamo annunciato, c'è una organizzazione non governativa britannica che sta mandando all'aria i piani di molti governi, governi regionali, governi nazionali, sulla questione dell'inquinamento, della salute dei cittadini, perché a suon di ricorsi evidentemente hanno trovato il tasto giusto da suonare, e così torniamo a conservatori. E anche mandando all'aria, scusa, volevo farti i miei complimenti. Tutta una serie di riferimenti assurdi. No, Ugo Taddei, buongiorno, avvocato attivista di Client Earth. Buongiorno a tutti e buona domenica. Buongiorno. Buona domenica. Allora, noi avevamo toccato l'argomento qualche settimana fa parlando con l'associazione che in Italia voi avete in qualche modo sostenuto, sposato, che era Cittadini per l'Aria, e che in Lombardia aveva fatto un ricorso al TAR contro il piano di politiche regionali per la gestione dell'inquinamento e della qualità dell'aria, prima ancora, evidentemente anche temendo questo ricorso, Maroni, prima ancora dell'esito del ricorso al TAR, ha detto basta, vabbè, mettiamoci a ragionare, ok, ditemi cosa devo fare, praticamente è un po' questa la cosa. Esatto. Dopo che voi l'analogo ricorso l'avete fatto anche in altre città, a Londra, in Germania, eccetera eccetera. Allora, sono tanti gli argomenti, io non so da dove partire. Intanto spiegaci questa ONG per cui tu lavori, di cosa si occupa. Non fate taxi nel Mediterraneo, no? No. Allora, Client Earth è un'associazione ambientalista la cui specificità è proprio di usare strumenti legali per proteggere l'ambiente. Mm-hmm. Pensiamo che usare il diritto è uno strumento molto potente per rafforzare le richieste dei cittadini che vogliono un ambiente pulito e sano. Perfetto. Ci ricordi l'oggetto, per esempio, del ricorso in Lombardia, il ricorso che è stato fatto, che io citavo prima, come sta andando questa vicenda? Certo, secondo me questo è proprio un esempio di come si può fare, si può usare il diritto per cambiare le cose. Già sono passati solo 2 mesi da quando abbiamo fatto il ricorso contro, sostenendo Cittadini per l'Aria e AIPI, nella loro richiesta contro la Regione Lombardia di aggiornare il piano di qualità dell'aria, e fortunatamente la Regione Lombardia ha ricevuto il messaggio e ha finalmente deciso di iniziare il processo per aggiornare il piano. Questo è senza dubbio un passo nella direzione giusta. Quindi adesso cosa vi aspettate che succederà? Adesso noi vorremmo vedere il piano adottato nei tempi più brevi possibili, quindi che non si perda tempo inutilmente sì. nella procedura di aggiornamento, ma si proponga subito una bozza di piano e poi si adotti nel tempo di pochi mesi. E soprattutto vogliamo vedere un piano che abbia un livello di ambizione molto superiore rispetto a quello precedente. Bisogna essere ambiziosi, cioè tu dici questa è una battaglia difficile questa per la qualità dell'aria, perché i nemici sono tanti e agguerriti, magari non sono neanche dei nemici come dire intenzionati, dall'agricoltura all'industria, alla mobilità, sono diciamo compagni della nostra vita, però bisogna trovare il modo di affrontarla, bisogna essere ambiziosi. Certo. Ma come per esempio, cioè voi avete, questa è una curiosità, che avete anche portate anche delle soluzioni, delle proposte, oppure il vostro ricorso si basa su quello che non è stato fatto, sugli errori commessi, su ricorsi appunto basati su quello che non è stato fatto? Beh, è un po' tutte e due, sono collegate le cose. Nel piano precedente, ad esempio, non esisteva una data entro cui i livelli di legge sarebbero stati rispettati. La direttiva è chiara, ha fissato dei limiti che sono in vigore dal 2005 e dal 2010, quindi ormai da molti anni, e richiede che nel caso di sforamenti vengano adottate misure per rispettare i valori nel tempo più breve possibile. Sono passati ormai 10 anni dall'entrata in vigore dei valori, vogliamo un piano che rientri nei valori nel tempo più breve possibile. Quindi, come prima cosa, il nuovo piano dovrà individuare una data certa entro cui i cittadini lombardi potranno rispettare. Cioè, voi dite non soltanto non si è riusciti a contenere l'inquinamento, ma non c'è neanche un piano che si pone seriamente questo obiettivo. Manca esatto. proprio anche in qualche modo la non so come definirla, la volontà, le idee chiare su come farlo. Ma se fossi tu assessore all'ambiente della Regione Lombardia, ministro dell'ambiente in Italia, qual è la prima cosa che faresti per contrastare questo inquinamento? Ok, diciamo non spetta a me, spetta all'amministrazione senza dubbio, però è chiaro. Ma stiamo ipotizzando che tu sia ministro. È assurdo, sì. Vai. Cioè chiudiamo gli occhi, Ugo Taddei, client Earth è ministro dell'ambiente, tocca a lui. E noi siamo felici perché voi siete una forti. Una bella progressione. Comunque sì, ci sono ovviamente alcune priorità che sono chiare. I due principali problemi in Lombardia sono il biossido d'azoto, che è un gas dannoso per la salute che viene in misura prevalente dai veicoli diesel. Prendo quindi appunti, biossido di azoto diesel. Sì, sono cose NO2, se vuoi pure la formula chimica. E questo è il primo punto. È domenica, vi ricordo che è domenica mattina, sono le 9 passate leggeri. Da poco. Stiamo cauti, sulle forme. Prosegui il tuo nuovo piano. Ok, quindi senza dubbio devono essere prese misure ambiziose per limitare la circolazione dei veicoli diesel, cominciando da quelli più vecchi, e ad esempio in Lombardia sono ancora permessi veicoli diesel vecchi di 10 anni. Ma come mai? Perché io che ho la macchina diesel, ma come mi rispondi? Sei diventato un politico. Io non ho neanche non la patente, la ma sto facendo l'avvocato del diesel. Sto chiedendo al nuovo ministro, mi scusi, ma io ho una macchina diesel che c'ha 11 anni, come faccio? Domanda difficile, allora. Senza dubbio, secondo noi non devono essere i cittadini a pagare. C'è stato un problema col diesel, è stato sostenuto, è stato pubblicizzato come un mezzo di trasporto pulito, verde, ecologico. E io ci sono cascato! Ci siamo sbagliati, è stato un abbaglio. Sì. Senza dubbio, le autorità governative hanno tutti gli strumenti anche per aiutare i cittadini a cambiare. Diciamo chiaramente incentivi economici, come incentivi per esempio economici. Sono stati annunciati sia in Austria, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, sia a Londra, il sindaco Khan, incentivi per chi compra per esempio l'auto elettrica, quindi rottama un'auto diesel e compra un'altra auto, ti do dei soldi. Beh, poi di incentivi noi siamo vissuti per secoli. Secondo punto, perché tu hai detto sono due punti. Esatto. L'altro problema principale è il particolato, il PM10, il PM2.5. Mm-hmm. Queste sono delle piccole particelle nell'aria che di nuovo vengono respirate, entrano nei polmoni, poi entrano in circolo. Le cosiddette polveri sottili, esatto, giusto? Esatto. Queste sono causate da un po' più difficile, sono più fonti che generano il particolato, tra cui anche il traffico di nuovo, quindi migliorando quello che è il sistema di trasporti, migliori anche i livelli di polveri sottili. Ma un altro problema principale è l'utilizzo di combustibili fossili o solidi, quindi anche legno o biomasse, per il riscaldamento domestico. Di nuovo, anche qui c'è l'impressione che utilizzare le stufette, le caldaiette a legna sia un modo ecologico verde di riscaldarsi, quando non è così. Posso farti una domanda stupida, scusami? No, io sono rimasto senza parole, perché pensavo, quando in passato tutti gli alimenti si riscaldavano col camino, bruciando legna, ci doveva essere un'aria terrificante, piena di particelle, perché era tutto combustibile. Infatti sono le immagini di Londra, l'industrializzazione, l'Ottocento, lo smog, e si muore. Ma volevo chiederti una cosa stupida. Non so se hai visto questa startup che... vuole creare un oggettino che si attacca all'iPhone per poter calcolare l'inquinamento nell'aria. E sono dolori. Non ho visto questa, ma ce ne sono... È una raccolta fondi su Kickstarter per mettere in produzione un rilevatore in grado di analizzare i composti organici volatili nell'aria e mostrare il risultato sullo schermo dello smartphone. Quindi praticamente uno va in giro con lo smartphone, schiaccia un bottone, come si suol dire, e ti viene detto da 0 a 500 com'è l'aria. E tu giri e torni a casa. Volevo capire se era una cosa sana, giusta, o se era uno specchietto per le allodole. Ma allora, ci sono molti molti strumenti, c'è anche un'app, si chiama Plume, P-L-U-M-E, che è un'applicazione che sul cellulare utilizza dati pubblici disponibili per dirti ogni giorno qual è la situazione dell'aria. Cioè incrocia più dati di più siti. Esatto. Chiaro, forse questo è più... Senti, Ugo Taddei, Client Earth, stiamo parlando. Voi siete operativi in tutta Europa, in Gran Bretagna pure avete fatto un ricorso, questa volta addirittura contro il governo, per cui qua la questione è più ampia, no? Ci puoi fare un flash su questa cosa qua? Certo. Allora, in Inghilterra è contro il governo perché a livello di distribuzione delle responsabilità è responsabile il governo centrale. In Inghilterra abbiamo iniziato la causa nel 2011. È stata una lotta abbastanza lunga e difficile. Quando finalmente nel 2014 la causa ha raggiunto la Corte di Giustizia Europea, che ha confermato che cittadini e associazioni hanno il diritto a un'aria pura, e hanno il diritto di andare davanti ai tribunali e richiedere alle autorità di adottare tutte le misure possibili per migliorare la qualità dell'aria. Ma tra l'altro in Gran Bretagna sembra un po' il sindaco di Londra, Khan, che ha annunciato misure anche abbastanza draconiane, un po' per esempio su un altro fronte, quello del fumo, si annunciano a maggio pacchetti di sigarette più senza marche, senza la pill del nome della marca, solo con le foto scioccanti, eccetera eccetera, no? La Gran Bretagna sta assumendo posizioni forti su questa questione dell'inquinamento o è un'impressione vista da qua? Le cose stanno migliorando senza dubbio. Penso che sia pure grazie alla nostra azione, che comunque dal 2011 ormai abbiamo già vinto 3 volte contro il governo inglese. Cioè siete 3-0 praticamente. Poi adesso il governo è cambiato, c'è Theresa May, però tocca a lei rispondere. Senti, un altro fronte europeo è quello. È vero che a Düsseldorf in Germania siete riusciti a ottenere un risultato importante sulla circolazione dei veicoli diesel, praticamente sono stati vietati o qualcosa del genere? Esatto, allora a Düsseldorf e Monaco di Baviera ormai siamo riusciti a ottenere delle pronunce dal tribunale che riconoscono che il problema centrale lì è il biossido d'azoto, e visto che la fonte principale sono i veicoli diesel, la misura più efficace è proprio vietare i diesel dalle strade dove ci sono. Ma quindi adesso non e il adesso faccio ich bin Deutsch, faccio quello tedesco uguale che c'ha un diesel e abita a Düsseldorf, perché cosa fa? Sta a casa, va a piedi. Cambierà macchina o utilizzerà i mezzi pubblici. No, scusami, sembrava solo una domanda stupida. Mi chiedevo, il governo tedesco come ha risolto il problema? Non credo che gli abbia detto a tutti quelli con il diesel statevene a casa. No. Allora, ci sarà un piano di conversione? Al momento questa pronuncia è stato presentato un ricorso e stiamo aspettando la decisione. L'esito del ricorso, perché chiaramente il Land ha fatto ricorso, quindi vabbè, staremo a vedere. Poi, vengono introdotte dall'oggi al domani. Ci aggiorneremo. All'orizzonte ci sono Trump che rinnega tutti gli impegni di Parigi e la Cina che invece annuncia una svolta ecologica. Non so se voi dal vostro orizzonte di Client Earth ci credi a questa svolta green della Cina? Io sono fiducioso, diciamo la verità. Secondo me stanno cominciando a capire la serietà dei problemi, soprattutto in materia anche perché di a Pechino dell'aria. C'è un'aria terrificante, esatto. Va bene, grazie Ugo Taddei di Client Earth, grazie mille per essere stato con noi. Insomma, questa è la situazione, una ONG che non va in taxi su giù per il Mediterraneo, non fa da taxi, ma anzi tiene a casa tutte le auto diesel, per esempio. Questa è accaduta a Düsseldorf e a Monaco di Baviera, vedi? E poi misure si annunciano anche in Gran Bretagna e in Lombardia. Staremo a vedere. La Lombardia è la regione forse con più inquinamento in Italia. Non ce ne vogliano le altre regioni se rivendichiamo questo primato, ma ci teniamo. Perché è la più popolosa, sono 9 milioni di abitanti. 800 24 00 24, tra un attimo con gli ascoltatori. Patrizia da Ascoli, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Cosa volevi intervenire, Patrizia? Io per il personaggio della settimana. Oh yeah, chi è? Ambra Angiolini. Per quale notizia e motivo? Per i suoi 40 anni. Nazionale Popolare. 40, beh, Nazionale Popolare. Non c'è dubbio alcuno. C'è dubbio alcuno, anche se sta diventando anche lei un po'. Sta lavorando per diventare di nicchia. A 60 anni sarà di nicchia. No, sto scherzando. Complimenti e auguri ad Ambra Angiolini. Non era però lei il nostro personaggio a cui stavamo pensando, cara Patrizia, e lo capirai tra poco quando daremo il secondo indizio. Stella da Bergamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho telefonato per il personaggio, non è un personaggio, però è l'Alitalia, secondo me, perché è Nazionale Popolare. Sì, sì, sì, sì, e sì. C'è stato il referendum popolare e quindi, secondo me... Cioè, sì, c'è stato, non so quanto l'Alitalia sia popolare ultimamente, no, ma popolare, nazionale sicuro. Nel senso che è sulle prime pagine di tutti i giornali, no, ormai da troppi anni. La risposta sta nei crismi, infatti il notaio ha annuito, ha fatto così, ha detto sì, ci va bene, però non ce la siamo sentita di dare all'Italia il cappello di si può fare. E quindi non era la risposta giusta, momento. Grazie Stella. Beh, a questo punto diamolo un altro indizio. Diamo un secondo indizio, ovvero che la storia che stiamo cercando ha emozionato i social. Quindi una storia, il personaggio e la storia, che riguarda un'emozione anche, una cosa che emozionarsi, i social ne hanno parlato e il personaggio è Nazionale Popolare e ha emozionato i social. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città. Assalamu alaikum. Insieme da questa terra di incontro tra cielo e terra, di alleanze tra le genti e tra i credenti, ripetiamo un no forte è chiaro ad ogni forma di violenza. E questo era il Papa in Egitto, le parole del Papa di qualche giorno fa, la sua visita importante in Egitto. Salvami, ma chi più di medici che fanno un corso per andare a operare in situazioni di guerra, di crisi, di disastri, le cose da cui normalmente si fugge, loro ci si buttano, vanno ad aiutare. È una cosa incredibile. E studiano prima, perché andavano già prima, ma ci si è resi conto che bisogna anche essere preparati. Un conto è essere un medico dentro in un ospedale in centro in Italia, e un conto è essere in una zona di guerra. Ci voleva un corso, il corso adesso c'è, l'organizza l'Università del Piemonte, con noi Alba Ripol Gallardo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Spero di aver pronunciato bene il nome. Benissimo, grazie. Perché Alba non è di origini italiane? No, esattamente, sono un'anestesista e reanimatrice, mi sono laureata in medicina e chirurgia all'Università di Barcellona nel 2007. Adesso e poi mi sono... Sì, prego. Prego. E poi mi sono trasferita per motivi personali in Italia, dove ho avuto l'enorme fortuna di conoscere il professor Francesco Della Corte, direttore del CLIMEDIN, che è il centro di ricerca in medicina all'emergenza e disastri dell'Università del Piemonte Orientale. Ecco, il CLIMEDIN che organizza questi corsi di cui vogliamo parlare con te, corso di formazione specialistica per medici umanitari. Parliamo proprio del massimo della generosità, dell'altruismo, della solidarietà. Per noi è un si può fare grandissimo che ci siano delle persone che, oltre a studiare medicina, si preoccupano, pensano di voler andare proprio a intervenire nei luoghi dove ci sono guerre. Che cosa, Alba? Tu stessa sei stata, raccontaci magari anche qualcosa di tuo. Sì, certamente. Allora, io nel 2013, mentre ero ancora all'ultimo anno di specialità, ho avuto l'opportunità, insieme ad altri 4 giovani medici italiani, di partecipare come studentessa all'inizio all'edizione pilota del corso Humanitarian Medica, appunto, che è un corso organizzato e coordinato dal CLIMEDIN in collaborazione con l'Organizzazione Umanitaria Internazionale Medici Senza Frontiere Italia. E l'obiettivo di questo corso sarebbe quello di fornire a quei medici giovani che vogliono essere inseriti all'interno di un progetto di medicina umanitaria sul campo e che sono ancora alla fine del loro periodo di formazione specialistica in anestesia, medicina d'emergenza e pediatria, gli strumenti e le capacità necessarie per svolgere correttamente la loro attività professionale sul campo. Ma quindi tu facevi parte del corso pilota nel 2013, esatto, adesso invece ne sei diventata la coordinatrice. Anche sì, questo è un si può fare, nel senso che noi siamo molto contenti di questo, perché pensiamo che chi meglio di te può capire quali siano le difficoltà sia degli studenti, sia dei coordinatori, sia degli insegnanti. Sì, esattamente. Devo dire, devo essere giusta, non sono l'unica coordinatrice di questo corso, c'è vicino a me il dottor Luca Ragazzoni, siamo in 2. Perfetto, perfetto, e noi lo salutiamo. Senti, ma non siete però, ecco, gente, voglio dire, siete un po' particolari, non è che uno si sveglia la mattina, vabbè, fare il medico è una carriera, si sa, insomma, è anche una carriera gratificante, però pensare di iscriversi a un corso per andare a operare in situazioni di guerra o dove ci sono cataclismi, eccetera, non siete proprio normalissimi, avete qualcosa di particolare, cosa secondo te? Allora, penso che noi riconosciamo effettivamente la necessità di prepararsi, dobbiamo tenere conto di una cosa molto importante. Negli ultimi anni siamo stati testimoni tutti, tutta l'umanità esattamente, del fatto che il numero di disastri e la severità di questi disastri e le crisi umanitarie ovviamente sono in aumento. Ed ne abbiamo viste tante, talmente tante, tu dici, Alba, che quindi è normale che ci sia una sensibilità che cresce, che aumenta. Sì, una sensibilità è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa che ci dice che appunto le crisi umanitarie sono sempre più in aumento, mentre i professionisti sul campo in grado di gestire in modo adeguato queste crisi al confronto sono sempre molto di meno. Quindi proprio una necessità al di là della sensibilità, cioè c'è necessità, c'è più bisogno di una volta? Sì, c'è più bisogno soprattutto, prima di tutto, da un punto di vista psicologico, perché parliamo di un lavoro duro che non tutte le persone vogliono fare, perché ci vedono molte ingiustizie, molte atrocità. E si deve lavorare in zone di conflitto armato attivo dove per la me, violenza per me sarebbe già terribile fare il medico, vedere il sangue e figurarsi, questo mi sembra un upgrade, nel senso che non solo devi occuparti di malattie e persone che soffrono, ma di malattie e persone che soffrono all'interno di un contesto o di guerra o di cataclisma. Sì. Senti Alba, ma tu qual è il momento più difficile, no? nel caso di un medico che va a fare interventi in una zona di guerra? La partenza, quando magari hai dei dubbi su quello che stai andando a fare, quando ti trovi lì, oppure magari quando invece devi lasciare le persone che hai aiutato? Qual è per te stato il momento più difficile? Allora, diciamo che ho fatto diverse missioni e tutte le missioni che ho fatto sono state particolari in qualche modo. Se proprio devo parlare di una che mi ha colpito proprio in modo particolare, sì, è stata quella dello Yemen. Perché ricordo, di fatto, per raggiungere la destinazione del progetto a nord del paese ci sono voluti diversi giorni a causa dei incessanti bombardamenti. E ricordiamo anche che la guerra, scusami se ti ho interrotto, ricordiamo anche che la guerra nello Yemen è terribile, se ne parla molto poco. Noi ultimamente parliamo molto di Siria, ma della guerra nello Yemen è praticamente scomparsa dai nostri giornali, scusami. Sì, sì. No, appunto, sono molto contenta che avete fatto menzione di questa cosa, perché Siria è un dramma, ma purtroppo effettivamente non è l'unico. Stiamo parlando, appunto, sì, come dicevo, dello Yemen, dove per esempio è impossibile per gli operatori umanitari poter riposare a causa del tremendo frastuono dei costanti bombardamenti, con a volte più di 100 bombe lanciate in un'ora. Cioè, ricordo essere passata con la macchina per una città fantasma, no, del paese, devastata dalle bombe, voragini immense, aperte in palazzi e case. E poi, insomma, potete immaginare come sia il lavoro in una zona del genere. No, no, non credo che possiamo immaginarlo, credo che ce lo devi far immaginare tu. Scusami. Ma purtroppo, se devo essere sincera, ho visto decine di corpicini di bimbi deceduti, fatti a pezzi e trasportati in sacchi in ospedale, altri bimbi mutilati che raggiungevano l'ospedale anche a piedi, senza piangere, con uno sguardo pieno di dolore e terrore, che mi guardavano anche come se io in qualche modo potessi spiegare perché loro, le loro manine non ce le avevano più. Tante persone urlanti, totalmente ustionate, con alle spalle giorni di viaggio in furgone, urla disumane, sangue, appunto, come dicevate voi, sangue dappertutto. Ricordo di essermi dovuta cambiare diverse volte durante la stessa giornata, insomma. Direi che è molto chiaro quello che ci stai raccontando. Alba, ma come funziona questo corso? Nel senso, si prova... Come funziona? Perché ho letto che c'è una parte virtuale. Qualche informazione, esatto, perché magari qualcuno all'ascolto può essere interessato, magari aveva questo anche desiderio di fare un'esperienza del genere, però siccome... E di avere Alba Gagliardo come coordinatrice. Esatto, che corsi non sono moltissimi, poi con Alba Gagliardo c'è solo questo. Allora, sì, molto velocemente. È un corso in cui bisogna prima di tutto passare una preselezione con CRIMERIM e Medici Senza Frontiere, in cui praticamente andiamo a valutare le capacità trasversali come flessibilità, motivazione, capacità linguistiche, eccetera, eccetera. Soprattutto in termini di inglese, meglio se si è in possesso anche di conoscenze in altre lingue. E poi è un corso che dura poco più di 3 mesi, consiste in 3 mesi di apprendimento online. Una seconda parte del corso consiste in una settimana presenziale presso il nostro centro di ricerca, dove gli studenti vengono fondamentalmente esposti a moltissimi esercizi di simulazione basati in casi reali, veramente accaduti sul campo. E finalmente, di seguito al completamento di queste 2 fasi, gli studenti passano a formar parte del personale effettivo di Medici Senza Frontiere e sono inviati sul campo. Ok. Ma e le specializzazioni contano di queste persone? Cioè, voi cercate delle figure precise? Avete bisogno, che ne so, di un anestesista piuttosto che di un chirurgo, piuttosto che di un pediatra? Assolutamente. Al momento questo corso è aperto per anestesisti, medici in ambito di medicina di emergenza e pediatri. Perfetto. Benissimo, grazie Alba, abbiamo dato anche qualche informazione utile. Senti, ci dici come si dice si può fare in spagnolo? Così lo usiamo per il nostro promo. Stiamo facendo un promo. Potremmo saperlo. Me lo rifà. Se puoi saperlo, potremmo saperlo. Podemos hacerlo, Sì. Qual è la differenza tra se puede hacer e podemos hacerlo? Se puede hacer è impersonale, podemos hacerlo e noi possiamo. Va bene, tu quale preferisci? Possiamo farlo. Brava. Ma sai parlare, e dello Yemen invece come si dice? Mi chiedete qualcosa di troppo difficile. Va bene. Quella lingua non figura tra il mio... Va bene, a posto così, grazie mille, buon lavoro buona coordinazione. Ciao Alba Gagliardo, grazie. Questi sono i corsi in Università del Piemonte organizzati da questa istituzione CRIMEDIM per fare medici in situazioni d'emergenza. È una cosa pazzesca, ma ce n'è veramente bisogno. 800 24 00 24, cari ascoltatori, noi stiamo su un piano molto più basso, stiamo semplicemente cercando un personaggio della settimana che è nazional popolare e ha emozionato i social. A tra poco. Sole, scoprire il mondo che c'è. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Che devo fare? Abbiamo ascoltatori? Sì. Marco da Firenze, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Sì. Vai. Allora, io posso fare una premessa, una piccola premessa. Certo. Allora, io telefono da Firenze, ma tipo per la Lazio. Va bene. E oggi è un giorno un po' particolare per chi tifa per la Lazio. E ognuno ha i suoi problemi in casa. Lei tifa, tu Marco tifi per la Lazio. Detto questo, con grande sofferenza dico un nome che mi fa rabbrividire, però insomma, io pensavo che il personaggio della settimana fosse Francesco Totti. Ma è un nome bellissimo, è un nome grandissimo, è un nome simpaticissimo. Si capisce che sono della Roma? Si capisce. Rabbrividire mi sembra esagerato. Perché Totti? Perché Totti? Perché ha scritto una lettera un po' strappalacrime a sua moglie, quindi lui è sempre nazionale popolare. Tutto per il compleanno, per il compleanno di Ilari. Sì, dai, diciamole bene le notizie, perché questo è anche il succo di questo gioco. No, perché se non ci dai gli elementi non possiamo stabilire se la risposta è del tutto giusta o del tutto... Spero che sia il personaggio della settimana solo per questo. Comunque. Guarda, lo spererei anch'io, anche semplicemente per averti in giro, che sei obbligato a ringraziare Totti per tutta la vita. Quindi sarebbe una cosa bellissima. Sei andato vicino, non è il personaggio che avevamo scelto, però anche le domande che ti abbiamo fatto era proprio per capire questo, e saresti il personaggio giusto, nel senso che con la storia che vogliamo raccontare noi e che abbiamo scelto noi, non sarebbe successo che tu potessi dire rabbrividire per Totti perché sei della Lazio. Direi che ho detto fin troppo. Sì, allora aspetta, visto che sono le 9:50 e siamo stati un po' cattivelli stamattina, diamo un altro aiutino, perché l'aiutino è questo, riguarda un derby, come stava dicendo Carlo con altre parole, un derby in famiglia, quindi il personaggio nazional popolare. Perfetto. Ha commosso i social e c'è un derby in famiglia. C'è tutto. Vai. School Rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca e capisci anche l'H. Sveglia, è ora di imparare ad imparare, non c'è un maestro solo che lo possa insegnare, perché un solo maestro da un punto di vista, e per vedere il resto te ne serve una lista. Ci serve un matematico per non dare i numeri, aggiungici un filosofo per pensieri effimeri, sommaci uno storico che dica com'è andata, e un fisico quantistico che dia un'accelerata. Data una rata prepagata, quanto costa una telefonata alla fidanzata. Comincia con Vasco una splendida giornata e termina con Kante la notte stellata. Giocare col sapere. Abbiamo scelto questo Frankie I Energy dannata con School Rocks per parlare di una scuola super, una super scuola, l'Istituto Tecnico Natta di Bergamo, che ha vinto un premio. Bravi. Il premio, molto bravi. Il premio del MIUR, che sarebbe il Ministero dell'Università e della Ricerca. Chiediamoli a loro direttamente perché hanno vinto di questo farci premio. Farci raccontare questa bella storia. Esatto. Maria Amodeo, buongiorno, preside dell'Istituto Tecnico Natta di Bergamo. Buongiorno. Io dico solo che riguarda questo tema che sta diventando un po' spinoso dell'alternanza scuola lavoro, che non sempre va come dovrebbe. Invece voi siete dei giganti in questa tematica qua, è così? Sì, infatti, almeno così ha pensato il Ministero di noi, per cui di fatto siamo assolutamente orgogliosi magari di poter dare anche una mano a quelle scuole, a quegli studenti o a quelle insomma realtà anche aziendali che ancora non ci credono sulla potenza di una metodologia, di un metodo di applicare le conoscenze anche attraverso le competenze al lavoro. Insomma. Ecco, ci spiega questo in due secondi, visto che siete i numeri uno a farlo, che cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Ci spiega che cos'è? In pochissime parole, giusto per non tediare i vostri. No, non tediamo, non tediamo, però spieghiamo, la professoressa sintetica però. Benissimo, assolutamente sì. Allora, l'alternanza è da tutti i punti di vista una metodologia didattica, non è una fornitura di lavoro giovanile, assolutamente. Nasce in tempi ancora antichi, cioè nel senso che nasce proprio con una legge del 2003, la legge 53 sulla scuola, prosegue nel suo percorso con alterne vicende sino alla legge 107 del 2015. Che l'ha ripescata, okay. Esatto, che pone come obbligo curricolare alle scuole la realizzazione di 200 ore per i licei e di 400 per i tecnici. In che fascia d'età? Cioè si inizia subito? La legge è assolutamente assolutamente ferrea da questo punto di vista, include almeno il compimento del 15° anno di età. Quindi a 15 in su si può iniziare, terza, perfetto. Ma in realtà dalla terza in poi, quindi in terza i ragazzi in realtà hanno già più che abbondantemente perfetto. Raggiunto il 15° Ci dice, preside, invece cosa avete fatto poi voi per meritarvi questo premio? Dunque, noi in realtà nasciamo vecchi, nel senso che abbiamo realizzato un bellissimo progetto con un'azienda, la Radici Group, che già con noi realizzava progetti di alternanza, però intesi come tirocinio individuale, cioè la classica alternanza, i ragazzi vanno in azienda e applicano le loro conoscenze. Nel nostro caso noi siamo un biotecnologico, non siamo soltanto un tecnico per chimici, ma anche un liceo delle scienze applicate. Comunque, insomma, applicano quelle che sono le loro conoscenze in azienda, magari in settori di produzione e di operatività molto settoriali. In realtà, con un'azienda molto speciale come la Radici, ma non solo con la Radici, che ringraziamo perché il premio è metà loro, possiamo dirlo, perché buona parte di questi progetti l'avete fatti con loro. Sì, cosa avete fatto? Insieme a loro, non soltanto con loro. In questo caso speciale ci siamo messi attorno ad un tavolo tra responsabili dell'azienda, responsabili di settori anche di altissimo livello, perché la Radici produce poliammidi e da qui il nome poliammidi. Certo, una super azienda, esatto. Non tutti, devo dire, hanno la fortuna di avere vicino casa una super azienda e quindi può dare un consiglio però, preside, invece, lei l'ha detto prima, no? A quelle scuole che dove l'alternanza scuola-lavoro non funziona, riesce, li mandano a pulire i gabinetti, come mai? No, fino a questo punto magari non succede mai, però magari le classiche succede perché ne abbiamo parlato. Glielo diciamo noi, c'è una denuncia di alcuni studenti pugliesi dove purtroppo è successo anche questo. Caspita, allora proprio questo è proprio male. La soluzione è una e una soltanto: scegliersi. Le scuole devono scegliere le aziende, devono scegliere quelle imprese, quegli imprenditori o anche quegli artigiani, perché di fatto non è necessario un lavoro con un grande gruppo, bastano comunque delle persone intelligenti che si mettono ad un tavolo, come appunto abbiamo fatto noi, e scelgono argomenti, tematiche che sono di sviluppo e di interesse reciproco, tanto per la scuola per migliorarsi, tanto per l'azienda per migliorarsi. Questo è il segreto, questa è l'unica matrice che deve essere presa in prima considerazione. E se lo dice lei, preside Amodeo, noi ci fidiamo ciecamente. Che con l'istituto NATA, se non si riesce a trovare questa azienda, si possono anche trovare altre soluzioni di impresa formativa simulata. E questo consente comunque ai ragazzi di evolversi verso l'etica del lavoro in un modo altissimo. Quindi o scegliersi e quindi andare in azienda, oppure trovare un progetto che possa essere di interesse didattico. Facciamo tesoro di queste parole, grazie. Grazie mille. Alla scuola e NATA, buon primo maggio. Anche a lei, grazie. E a tutti. E grazie anche all'azienda che ha partecipato a questi progetti. Dobbiamo dirlo naturalmente, perché dietro c'è anche l'impegno di queste aziende che devono poi mettere in campo questi progetti di alternanza scuola-lavoro, che se non sono fatti bene rischiano addirittura di essere controproducenti, ma quando sono fatti bene sono bellissime opportunità di lavoro e di crescita straordinari. Mario da Roma, benvenuto, vai che siamo in chiusura. Buongiorno. Buttati. Salve. Come? Io avrei pensato a Bonucci. Perché? Perché ieri ho visto un suo post che postava una foto del figlio con la maglia del Torino, il Granata. Perché il figlio è un tifoso del Torino. Un tifoso del Toro, un tifoso Granata. E lui l'ha accompagnato in tribuna tranquillo a vedere la partita con la maglia del Torino. Sì. Una bella immagine. E vai, ci era piaciuta molto, perché è un super, si può fare questo qui. È il nostro personaggio. È stato più difficile del previsto. È stato più difficile, però è anche normale. Sì. Per quelli che dicono, perché se sono così presto sicuramente non ho vinto. E di solito vincono quelli che ascoltano tutti e tre gli indizi. Con il primo indizio è più difficile ed è più facile sbagliare. È normale che sia così. Eh certo, complimenti Mario, verrai contattato dal nostro centralino per il libro. Ricevere un libro. Che sarà scelto in base anche ai temi della puntata. Il libro di ieri l'abbiamo detto, l'ascoltatore che ha vinto. Era la medicina orientale. Benissimo, è tutto per oggi. Noi ci risentiamo il sabato prossimo con Si può fare. Naturalmente un grande ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, oggi Filippo Aureggi in regia. Anche a chi ci ascolta in podcast un grande saluto, buon primo maggio, metteteci quello che volete, buona domenica, buone primarie per chi va a votare. Ciao da Alessio Maurizio. E ciao da Carlo Gabardini, buona domenica.